non sarebbe dispiaciuto magari un flirtino piccolo piccolo così. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia della premiata ditta Garinei e Giovannini. La Bisarca del 1950 nasce sulla base di un'omonima trasmissione radiofonica della Rai di gran successo. Per Garinei e Giovannini è un giro di boa anche perché coincide con una serie di incontri storici. Per cominciare, la Bisarca debutta al Palazzo Sistina, come si chiama all'epoca il teatro più grande di Roma, il luogo che diventerà il tempio del teatro leggero italiano e la casa della coppia Garinei e Giovannini. Inoltre, lo spettacolo rivela una nuova coppia di comici, Billy e Riva, strumenti essenziali per quella satira politica di quella rivista rivoluzionaria che si basa su un testo legato all'attualità, in netta controtendenza rispetto alle riviste sfarzose della Osiris. Hanno rubato Roma, hanno rubato Roma. Come facciamo? Noi dobbiamo sorgere liberi e giocondi. Eh già. Io qua c'ho scritto libero. Perché secondo te io c'ho scritto giocondo? No. Le scenografie sono moderne ed eleganti. A firmarle è un'altra scoperta di G&G, lo scenografo Giulio Coltellacci, che dalla Bisarca in poi non li lascerà più. Alla fine del 1950 un'altra figura essenziale irrompe nella vita di Garinei e Giovannini. È un giovane musicista che la stampa dell'epoca definisce un grissino con smoking e baffi, Gorny Kramer. Kramer è un famoso suonatore di fisarmonica e un grande patito di jazz. E Kramer in realtà è il suo nome di battesimo, che suo padre, il signor Gorny, gli ha dato in nome di un ciclista americano. Per Garinei e Giovannini, Gorny Kramer scriverà le musiche di decine di spettacoli. Autore di canzoni di successo e anche un direttore d'orchestra dalla popolarità sempre in ascesa. Lo commenta per noi Renzo Arbore. Quando noi leggevamo Garinei, Giovannini, Kramer, la canzone era certamente un capolavoro. Si chiamasse Non so dirti voglio bene oppure Un bacio a mezzanotte, che ancora io canto e faccio cantare alle mie orchestre, perché è una canzone deliziosa, visto che le canzoni non si distinguono in canzoni vecchie, nuove, canzoni difficili o canzoni semplici, eccetera. Si distinguono in canzoni belle e canzoni brutte, canzoni ispirate, nate dall'ispirazione, e canzoni cervellotiche scritte al tavolino. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica. Settembre 1951, Pietro Garinei è a New York. Dopo aver assistito ai musical in programmazione a Broadway, scrive a Giovannini. Siamo indietro di decenni. Indispensabile coreografo americano. Il viaggio in America influenza i due autori romani. Al musical di Broadway Carousel si ispira a Gran Baraonda, con le coreografie dell'americano George Reich, e segna anche un nuovo esordio, il quartetto Cetra, così il ricordo dell'autrice Yaya Fiastri. Le canzoni di Garinei e Giovannini sono bellissime, meriterebbero di essere riascoltate più spesso. E i testi sono però più che altro di Giovannini, perché Garinei e Giovannini, che erano diversissimi ma evidentemente complementari, si dividevano il lavoro. Allora, Garinei era il più tecnico, il più regista. Giovannini era il più fantasioso, il più poeta. Quindi i testi di Garinei e Giovannini sono più di Giovannini che di Garinei. Molti sperano in questo pilota, Remigio Paone, l'ormai famoso RP del nostro teatro. Raonda. La villa di Remigio Paone a Formia, la Caravella, diventa il quartier generale della produzione di Garinei e Giovannini. E no, perché tu e Garinei eravate d'accordo che io entrassi subito a cantare forte. No, invece piano piano. Senti, senti come ho pensato. Io entro, Dormi vicino nella tua culla.